Benvenuti al nostro focolare elettrico. Io sono Marco. E io sono Jacopo. E parleremo un po' di videogiochi in generale, non solamente in particolare di un videogioco specifico, se fa schifo, se è bellissimo. Un po' più di tematiche del perché fanno schifo o perché sono bellissimi. Esatto. Dalla nostra passione per i videogiochi cercheremo di analizzare quello che secondo noi rende un gioco bello e che cosa e quello che rende un gioco brutto. Eh sì, magari concentrandoci solo su un aspetto di più giochi. E, boh, sì, uscirà più o meno ogni 2 settimane, ogni mese, in base a quanto sarà complicato trovarci e preparare questi episodi, perché vi prepareremo un pochino di più del Sallotto, che è l'altro, diciamo, podcast del nostro universo creativo, creativo, mettiamola così, non cinematico. E grazie e alla prossima. Buon ascolto.